buonasera o una buonanotte, insomma dipende un po' da cosa state facendo e da quali sono le vostre abitudini. Da parte di Max Macchia, o forse buongiorno per chi ci ascolta sul blog e quindi magari ci ascolta anche appunto durante le ore diurne, non soltanto serali, notturne. E questa sera 451 Frammenti Sonori, che ritorna in mia compagnia e presenterà Water and Noise, acqua appunto e rumore, serata appunto dedicata a quello che può essere l'esperimento o gli esperimenti, forse è meglio pluralizzare la faccenda, legate a uno di probabilmente rumori e dei suoni che conosciamo meglio già dai primi giorni di vita. Appunto abbiamo un contatto diretto con l'acqua, ma anche prima, addirittura nei giorni prenatale, e quindi uno dei suoni insomma di fatto più trattati, più dentro a quelle che sono le ricerche musicali, e non solo quelle ovviamente. Ma stasera insomma siamo qua per trattare quello che è l'acqua come fonte, non soltanto quindi di vita, ma anche proprio rispetto a un suono incredibile, un suono che oltre che essere ovviamente palesemente suggestivo, vitale per l'appunto, è anche un suono veramente particolare, eccezionale, con frequenze veramente molto molto ampie, che possono portare a dei lavori anche molto lontani da quello che potrebbe essere l'immediato suono dell'acqua, l'immediata registrazione, e quindi un suono concreto che conosciamo appunto da sempre, ma appunto una complessità che può andare tanto dal sottile quanto invece a qualcosa di più potente. Beh, pensiamo poi in fin dei conti appunto all'acqua, come può essere qualcosa di molto molto delicato, come qualcosa anche di travolgente, se pensiamo agli tsunami. In effetti un po' anche questa è l'idea, non proprio dello tsunami sonico o sonoro, ma di trattare l'acqua con musicisti o non musicisti, forse più non musicisti che musicisti, e che trattano la materia sonora acquatica, liquida, come materia potente, come qualcosa che abbia un effetto anche devastante per alcuni aspetti, o comunque non assolutamente legato a forme, anche queste molto associate all'acqua, di relax, quindi quiete, ma tutt'altro, anche con appunto rimandi che possono venire da tutto quello che è il mondo acquatico, che comunque porta verso inquietudini. Ad esempio troveremo anche un pozzo a un certo punto, lo troveremo tra l'altro dentro Rumori Futuri, che insomma prende sempre più piede e gambe, dentro 451 Frammenti Sonori, ovvero file che ci state inviando, e vi ringraziamo anche tanto per questa attenzione, e che inseriamo ovviamente insomma cercando di stare in linea, per quanto possa significare tutto e niente questa linea rispetto alle le trasmissioni che trovate su 451 Frammenti Sonori .noblogs.org da un po' di anni, e sì, soprattutto così, più che in linea, forse in aria, ecco, potremmo dire in questa maniera, senza per forza scomodare il liquido che tra poco ascolteremo, il liquido sonoro trattato, la materia liquida, in aria insomma di sperimentazione, di quindi ricerca, tutte faccende insomma che da tempo ci impegnano e ci disimpegnano anche, perché tante volte c'è anche quello, e per fortuna, se no sarebbe soltanto gravosa la faccenda. E appunto grazie per i file, e continuate anzi a maggior ragione a inviarci file. Questa sera presenteremo, o altri materiali, supporti, sono benvenuti, sottoscritto, insomma, è anche un amante del vinile, ma non vi chiedo tanto, visto che sta diventando faccenda da ricchi, non soltanto stampare il vinile, ma addirittura anche comprarlo, insomma, dopo 2 o 3 anni di grande presa per il culo, detta come va detta, e dove sembrava, insomma, che tutta la faccenda del vinile potesse in effetti far tornare la musica, a parte che è un supporto del tutto particolare, ma soprattutto a prezzi più gestibili, più affrontabili, invece punto da capo, si vogliono recuperare i soldi persi, che poi i soldi persi non lo sono affatto da parte delle major, visto che poi li hanno fatti in tante altre maniere, sempre col mondo della musica, quindi anche qua, insomma, il sollevamento c'è, come ovviamente sollevamento posteriore, senza essere squisitamente volgare, ecco, lo sono stato prima, e appunto, quindi inviateci file, ovviamente in maniera più comoda, oppure supporti fisici, qua l'indirizzo della radio, l'attenzione di 451 frammenti sonori, e tra poco appunto tratteremo futuri rumori. Per iniziare, uno dei dischi importanti, tra i tanti, dedicata all'acqua, veramente, e ce ne sono veramente tanti, ondate di dischi e di materiale stampato e anche non stampato, che sarà stampato o che appunto viaggerà tramite altre forme, via file, magari, appunto, comunque sempre con materia acqua. Ma uno dei bei lavori trattato da Sub Rosa proprio sull'acqua, a questo punto si fa anche molto molto spostata la cosa rispetto appunto a un modo di vedere l'acqua, di sentirla, di vivere, ovvero acqua e architettura. Anche qua c'è come una bella onda di quelle che poi si vanno frastagliando, appunto arrivando a riva, fa da copertina e la dice lunga appunto su anche un'immagine che porta evidentemente e quasi immediatamente a un suono. E vari artisti lavorano a questo progetto di Sub Rosa di qualche anno fa, un bel progetto sul serio, sul trattamento dell'acqua, dentro poi situazioni geografiche molto diverse. Adesso andremo a prendere AIR, progetto di John Wozencroft, insieme a Russell Oswell, in questo caso, che trattando varie geografie attraverso appunto i lavori sull'acqua, quindi anche quello che può cambiare rispetto a una composizione, rispetto non soltanto al field recording che viene comunque fatto, ma proprio alla trattazione anche dell'acqua in alcuni posti geografici, anche in termini appunto musicali, in questo senso Water and Architecture, architettura si sviluppa in maniera assai interessante. E ci andiamo appunto a prendere il progetto AIR, come dicevo, con la presenza anche di uno splendido Russell Oswell, che all'epoca magari lavorava più su quello che era un suono meno cacofonico rispetto poi alla successiva parte della carriera, della sperimentazione, e forse un suono più sottile, anche dato dalla digitalizzazione. Seppur qua Russell Oswell già inizia a utilizzare strumentazioni analogiche, che saranno poi di fatto, insomma, strumentazione tuttora utilizzata da lui, e quindi che gli darà grande opportunità e grande apertura nel suo lavoro, sempre molto attento su quello che è appunto il trattamento del noise. Tra l'altro, lavoro che stiamo andando ad ascoltare da appunto Sub Rosa, l'anno ve lo dico dopo perché ho perso un po' di vista il libretto del CD e per iniziare appunto questo trattamento dell'acqua attraverso mente e mani, anche a questo punto ci vuole Noise, Air, progetto di Wozenkroff insieme a Oswell. Understand technically what happened, and I'm a technical person. Thank you. They were all remanded in custody. in custody. They were all remanded in custody. They were all remanded in custody. They were all remanded in custody. They were all remanded in custody. They were all remanded in custody. 10,600 meters. 1201, Roger, position. Emblem maintained flight level 10,600 meters. Standard. Contact Najim, control 135, decimal 4. I-5201, contact Najim, 135, decimal 4, okay? Great. Najim, control, all inbound 201, member. All inbound 201, Najim, control, good afternoon, Captain Parsons, member. I'll listen to. I-5201, good afternoon. Over member 09050, 10,600 meters, estimate Vizin 1013. 1998 per AER, ovvero progetto di John Vosenkroff, che tra l'altro in questo caso collabora con Sub Rosa, ma è uno dei creatori di una delle etichette più strabilianti, più eccezionali di sempre, legato ovviamente alle musiche di sperimentazione, di ricerca, ovvero la Touch Record. E in questo caso per questo progetto AER, poi sarà anzi l'anagramma di Alfa Ico Romeo, e insieme a Russell Oswell, che come si accennavo prima, uno dei grandi, se John Vosenkroff grandi ideatori di musica attraverso soprattutto la Touch Record, e quindi anche di organizzatore anche piuttosto insomma terroristico, un termine che in questi giorni è quantomeno spropositato, e vabbè, non posso più dire niente, come dire, mi autocensuro. E poi magari si parlerà con maggior calma, se ci sarà maggior calma, e anche questa è piuttosto inquietante. E appunto, se Vosenkroff la pensa e poi l'organizza anche in termini musicali, appunto poi strettamente con ad esempio questo progetto che abbiamo appena ascoltato, Alfa, Ico e Romeo, e poi per quanto riguarda invece Russell Oswell si passa proprio a mano militari quasi, perdonatemi ancora la similitudine inquietante, e che di fatto diventa uno dei personaggi degli ultimi 20 anni circa riguardo le musiche cacofoniche, concretiste, rumoriste, uno dei grandi figli di Merzbow, di Masao Makita, con lui tra l'altro ha anche collaborato e ha fatto anche dei lavori piuttosto interessanti, ma non solo, veramente una sorta di globetrotter delle musiche noise, in questo caso trattato appunto con Vosenkroff, che iniziavano con Radio Siberia, avete sentito infatti qualche sibilare che ricordava quelle terre, o riportava direttamente appunto lì, e addirittura finito con Requiem for a Globe, quindi come dire, di fatto poi un Requiem che anche questo di questi giorni suona piuttosto consono, seppur anch'esso, anzi forse ancora di più, sinistro. E se abbiamo anche accennato a Sub Rosa, che di fatto produceva questo Water and Architecture, e alla Touch gestita anche da John Wozencroft, beh, trattiamo di una faccenda non made, nata appunto qua in Italia, anzi attacco dell'Italia, quindi siamo tra il Salento e il sud della Puglia, della restante Puglia, potremmo dire, quindi andando verso il Tarantino e Barese, e un'etichetta molto interessante che andiamo a trattare appunto dentro Futuri Rumori, etichetta che si muove su ovviamente sperimentazioni che provengono sia da suoni concreti che da trattati tra l'altro in maniera anche piuttosto anomala, piuttosto singolare, ma di fatto è un po' anche dentro la testa e dentro anche le corde di personaggio assai originale come Andrea Penso, che tra l'altro ha fatto molti lavori nel corso di questi anni, anche piuttosto interessanti, passando da un folk primitivo, sempre interessato alla primitive music, Andrea Penso, e poi anche a lavori invece d'ambientazione di textura più drone, più ambientale, sempre non scordando mai quella materia sonora appunto primitiva, primigenia quasi si potrebbe dire. È una ricerca appunto sul suono che non soltanto tra l'altro Andrea Penso porta avanti, per il momento c'è Carlos Casas che ascolteremo dopo appunto Ritorno all'acqua di Andrea Penso, che tra poco metteremo in onda, e anche Matthew Hopkins, altro interessante artista che ascolteremo la prossima settimana, sempre dentro 451 Futuri Rumori, evidentemente, e un'etichetta che tra l'altro ci trova particolarmente interessati perché lavora anche molto sul visivo, sull'immagine, sia in termini così diretti e più semplici, anche se poi è vero fino a un certo punto della fotografia e della visual art, che potete anche già subito andare a godere attraverso appunto canti magnetici, questo è il nome dell'etichetta, appunto cercando e trovando subito il sito di riferimento, ma lavora anche su un'idea più generale, più sui generis appunto del visuale, quindi inevitabilmente anche pensando al cinema, riferimenti grande, non soltanto dell'arte cinematografica, ma come abbiamo sentito anche proprio del suono, del trattamento, della suggestione, del riuscire a essere sempre evocativo con le immagini anche al suono, rendere sempre totale la sua ricerca, ovvero Andrea Tarkovsky, che tra l'altro è una bellissima foto ritrovata degli anni 70, quindi anche proprio un riferimento a quello che potrebbe essere insomma lo sviluppo di un'etichetta che per ora è strettamente, ma comunque di base musicale, ma che evidentemente vuole andare oltre, e magari vuole appunto dialettizzare quello che uno dei momenti più alti, forse Tarkovsky in questo senso potrebbe essere una sorta di simbolo appunto del suono e visivo, no? Che si ha attraverso il suo cinema, attraverso la sua immagine così potente. Canti Magnetici, che appunto nasce da da qualche mese, se non addirittura da qualche settimana, tra Taranto, Ostuni e Lecce, appunto parlavo prima dell'attacco, e si sente anche molto, sia per quanto riguarda appunto il ritorno all'acqua di Andrea Penso, un evidente trattamento geografico, una preponderanza, per chi conosce i luoghi come sottoscritto, dell'acqua non potrebbe essere altrimenti, insomma, per i monti che ci sono stati o che lo conoscono, insomma, sanno che l'acqua è elemento fondamentale. Qua trattato in maniera assai evocativa, tra l'altro poi dopo ascolteremo Carlos Casas, che ci porta addirittura dentro un pozzo, anche ricordando qua lavori anche molto, molto arditi, ad esempio come quelli dell'Oliveros, dentro le Panayotis, dentro addirittura le cisterne, in questo caso dentro la bocca, la Vucca dell'Upuzzo, appunto in Salentino, anche se poi l'artista non è salentino, ma dopo vi dirò. Andiamo appunto a ascoltare Ritorno all'acqua di Andrea Penso, lavoro che si muove da e concretismi che sviluppano poi una linea armonica assai affascinante, e poi addirittura proprio un tappeto, potremmo dire, ambient, che prende sempre più una tessitura sempre più fine, come molti dei lavori appunto del passato di Andrea Penso, con questa appunto nuova esperienza. Tra l'altro il primo lavoro editato a suo nome, dopo vari moniker che ha utilizzato nel corso degli anni. Andrea Penso appunto con Ritorno all'acqua, ben felici di ospitare Canti Magnetici, e appunto Andrea Penso dentro Futuri Rumori. Di quello si sta trattando. Thank you. Lavoro sul serio evocativo, quello di Andrea Penso, che riesce in maniera quasi magica, forse un termine che potrebbe starci bene con le sue musiche, visto che tanto cerca anche quella quasi quel suono primordiale, quella sorta di suono primigenio, no? Che d'altronde poi tutta la stessa Canti Magnetici, no? E cerca attraverso appunto le primissime uscite discografiche, ma discografiche, insomma, si fa per dire, visto che per il momento sono file, ma che comunque insomma di fatto portano le loro ricerche, ecco, a compimento, inizialmente proprio su quello che è sicuramente, evolvendo questo linguaggio, quello che è la ricerca sul campo di fenomeni naturali, come anche insomma cercando quasi attraverso un trattamento che comunque come dire, è controllato e non insomma semplicemente così con un impatto diretto, ma anche meditato, anche qua forse termine che porta alla meditazione e al concetto insomma che musiche che provengono dalla natura poi possono essere trattate, meditate in questo senso come fenomeno non soltanto naturale, come fenomeno o perlomeno come fenomeno naturale, ma anche sonoro, se non appunto anche legato d'altronde poi a un immaginario visivo di rimando, e quindi anche il discorso che accennavo prima, ritorno all'acqua, ha questi elementi oltre ad avere insomma un elemento molto molto forte, seppure molto in filigrane, forse proprio quella la sua forza è quello di essere armonioso, di appunto creare attraverso il, tra l'altro, il noise, il trattamento del rumore, però appunto in maniera molto molto fine, questa atmosfera appunto molto liquida, quasi di ritorno appunto all'acqua nel vero senso della parola, e quindi anche una natalità, quasi una fonte battesimale, si potrebbe dire, cose che tra l'altro trovate anche come riferimento proprio nel sito di Canti Magnetici, appunto in presentazione del bel disco di Andrea Penso, del bel lavoro, ecco, chiamiamolo così, e visto che non esiste ancora supporto fisico, forse esisterà dopo, di Ritorno all'acqua. Canti Magnetici, tra l'altro, nasce da Gaspare San Martano e Donato Epiro, che conosciamo qua, 451 frammenti sonori, come Cannibal Movie, uno degli esperimenti anche qua di primitivismo, di tribalismo, di forme di noise ritualistico, anche con quel tanto di follia data anche già dal nome, no? Cannibal Movie, ci vengono in mente direttamente, no? quelle immagini assolutamente assurde, con anche momenti comunque veramente anche di quasi sfuggimento poi di quello che è il senso razionale, e quindi anche filmico, no? Penso insomma alla trilogia di Deodato, soprattutto al primo Cannibalico, che consiglio insomma di andare a vedere come visione non soltanto estrema, ma anche proprio appunto paradossale, veramente cosa che sfugge di mano, ma non come tante cose che poi vengono appunto recuperate come semplice curiosità, come B-movie, come insomma follia, però non volute, quindi così dentro il divertimento del recupero trash di molti di questi anni. No, qua c'è anche insomma veramente qualcosa che sfugge di mano e che va appunto oltre, va in un altro, che poi d'altronde poi viene quasi subito smarrito da Eodato. E comunque con Cannibal Movie, appunto, i due, San Martano e Piro, penso, e dalle musiche che fanno come Cannibal Movie, credo proprio che si riferiscono appunto a questi momenti, no, di Deodato, questi momenti del Cannibal Movie, poi i vari, insomma, epigoni o fratellastri più o meno leciti o illeciti legati alla filmografia, appunto, del cannibalismo, soprattutto italiano. Beh, non ci siamo fatti mancare neanche questo. E non dico anche nel senso buono, e con appunto Andrea Penso, i due Cannibal Movie creano questo Canti Magnetici, proprio nella creazione appunto di una ricerca sul field recording, che comunque non sia solo appunto una forma di mappatura oppure di registrazione, no? Ovvio che poi diventa anche qua meditata, anche quando si appunto fa semplicemente, tra virgolette, field recording, un semplice appunto registrazione di campo, e qua c'è anche un trattamento, appunto parlavo prima di un percorso sempre armonico che accompagna i lavori di Penso, come anche questo Ritorno all'acqua. E come per molti versi, ma forse con un senso più legato strettamente a un noise come materia brutista, quindi immediatamente associata al rumore, no? Se pensiamo al noise, pensiamo a qualcosa di defragante, cacofonico. Beh, poi in realtà può essere trattato anche in maniera fine, come abbiamo appunto ascoltato. Beh, con invece Carlos Casas, spagnolo, che stampa appunto per Canti Magnetici, invece si va su un rumore più inquietante, più sinistro, quello appunto della bocca, della vucca, dello puzzo, quindi del pozzo, no? Come dice la parola, e seppure qua è utilizzato anche in un senso, insomma, giocoso forse, o comunque è legato al territorio, però che lo utilizzi, insomma, uno spagnolo di fatto, insomma, lo come dire, detorializza poi di in maniera anche così simpatica, no? E con tutto, insomma, che comunque c'è uno studio, e tra l'altro Carlos Casas si immerge proprio dentro una cava nei pressi di Galliano, quindi vicino a Leuca, siamo proprio veramente sul tacco, e tra l'altro sotto il livello del mare, perché già i territori sono sotto il livello del mare, qua addirittura si va sotto la cava, quindi è come dire una musica subacquea però all'aria aperta, un po' paradossale come cosa, i Paesi Bassi non sono soltanto, insomma, nel nord Europa. Ci andiamo a sentire appunto un lavoro di eccezionale evocatività per questo senso appunto del sinistro che può dare appunto l'acqua del pozzo, il pozzo veramente trattato poi a livello visivo tantissime volte, anche giustamente potremmo citare, insomma, immediatamente Ringu, senza citare, insomma, poi il rifacimento americano, anche se l'ho fatto adesso di fatto, però insomma molto meglio Ringu con questo pozzo dove appunto compare quello che non dovrebbe mai comparire. Anche qua forse è la comparsa di un suono che ci porta appunto dentro i meandri, dentro questo pozzo, quindi scavo anche sonoro, questo calarsi, immergersi dentro l'ambiente sonoro e trattarlo, essere anche trattati poi da questo, perché sono ambienti anche di difficilmente difficili da trattare in maniera sonora senza avere chiaramente un impatto anche molto, molto forte, sia in termini emotivi che di fatto fisici. Va bene, ce ne andiamo appunto ad ascoltare questo Vucca dello Puzzo ancora per Canti Magnetici. ¶¶